Che poi non ho mai capito una cosa, Drago. Cosa? Boh. Chiedo asilo. Oh, bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Ecco, e un saluto anche da Tito, il nostro tutor. Tutor. A proposito del tutor, Kappa, sai che il safety tutor delle autostrade ha compiuto da poco un anno. Oh. E i dati dicono che funziona molto bene. Quindi un applauso un po' a malincuore al safety tutor. Auguri, bravo. Bravo safety tutor. E poi fare un applauso al safety tutor. È come battere le mani al proprio carnefice. Lo so. Quindi noi siamo così coraggiosi, così aperti che facciamo anche questo. O forse siamo schiavi e battiamo le mani. Tra l'altro succede nelle dittature più feroce, esatto. Ti metti lì ad applaudire solo per quello. Vabbè, comunque le multe non fanno mai piacere, però il tutor più che per le multe merita un applauso per il suo effetto deterrente. Quindi solo perché c'è, ma la guarda, gente va più piano, e quindi ma vuoi sapere una cosa che mi hanno detto, una cosa, cioè non la sanno tutti, tra l'altro dirla alla radio non so se si può, però cosa? È verissimo, eh? Cosa? Il tutor non esiste. Vedi, Tito già protesta. Ma guarda che ti dico che sono uscite decine di articoli proprio in questi giorni sui grandi successi del tutor. Altro che non esiste, guarda. È propaganda. Multe, no, ma propaganda. Basta, i dati alla mano. Basta con sti dati, basta con ste mani. Allora, sì, propaganda, è propaganda adesso. In realtà nessuno ha veramente tempo per controllare, capito? I passaggi delle macchine, le targhe. Cioè, il tutor esiste, ma lavora a vuoto. Ma hai capito? Scusa, io ti dico solo che sull'A4, grazie al tutor, fanno 5 multe all'ora tutti i giorni. Sì. Si era partiti con 80 multe all'ora, adesso con l'effetto deterrenza si è scesi a 5. Ma è tutta propaganda, ma dove l'hai letto? Su un giornale veneto. Ma è propaganda. Tu conosci qualcuno, tu personalmente, che sia stato multato per colpa del tutor? No, io ad esempio non ho mai preso multe. Ma scusa, ma te chi te l'ha detta sta cosa? C'è un amico di mio cugino che c'ha sua madre che lavora in polizia. Vabbè, allora cioè, la mamma però, cioè non sono cose che, capito? Poi la gente va forte, ma cioè parla. Comunque ci sono un sacco di leggende legate al tutor, capo. Sì, no, ma questa non è una leggenda, è un'informazione riservata, quanto lo devo dire? Sì, allora, così riservata. Vedi, che appena parliamo di sta roba è suoni al telefono, vedi, Drago, com'è? Pronto? No, ha messo giù. Vabbè, niente, è andata così. Vabbè, comunque così riservata questa cosa che tu ne parli alla radio. Vabbè, mi è scappata, facciamo finta di niente, no? Parliamo d'altro. Dai, e infatti le leggende sul tutor. Ma ad esempio c'è quello che dice che se di notte spegni le luci mentre passi sotto il tutor, lui non vede la targa. Allora provateci voi a spegnere le luci a 160 all'ora e poi mi dite come va a finire. Oppure c'è chi dice che puoi andare fortissimo nei pezzi di autostrada tra un tutor e l'altro, che poi basta frenare quando arrivi vicino a uno. Quello è vero, lo dicono tutti. Infatti ma se vedi quelli con le Porsche o con le Ferrari o con le macchine veloci, ti chiedi come mai che io ho un 1300 giapponese, li sorpasso, li guardo anche come dire ma quanto stai andando? Perché c'è il tutor sotto. Perché loro hanno fatto i 340 all'ora nel tratto prima di te, poi rallentano, fanno un tratto a 70 all'ora per Il tutor compensare. Infatti fa proprio questo, lui calcola la media e quindi non c'entra niente, anzi se tu freni quando arrivi vicino al tutor, vabbè, l'unica cosa Drago, vedi che non dentro, capisci niente di matematica, perché proprio perché se calcola la media tu vai a 340 all'ora, poi stai due ore fermo in autogrill, la media si abbassa, no? Tito, dai, smettila. Vabbè, scusa, hai appena detto che il tutor non esiste? L'unico tutor che rompe i coglioni dobbiamo avercelo noi. Shh, Tito. Borse in disfatta. Le borse crollano, il mercato globale trema. La soluzione è il mercatino globale. Oh, eccoci qua, mercatino globale, comanda il baratto, quindi qui l'economia è quella vera. Le bancarelle, le bancarelle, si vede quello che sì, c'è. Però niente soldi, cioè niente. tu dai quello che hai e ricevi così, quello che vuoi. Così, allora, vedi, problemi. Oggi sono in ribasso i racchettoni da spiaggia, io ne ho quei due. Vabbè, ma cazzo. Cosa ne faccio adesso? Finita la spiaggia non si va più. Esatto, tu hai così, ti sei fatto un po' prendere dall'esaltazione. Ormai in cambio di un racchettone nessuno ti dà niente, strano. Vabbè, però ci sono, insomma, potevi investire in qualche altra maniera, non so. Io ad esempio ho investito in tappeti indiani, perché in questo momento i tappeti indiani vanno fortissimo e sembra incredibile che un bene di consumo così démodé possa mostrare dei segni di ripresa nel 2011, eppure i tempi sono questi. Vabbè, tappeti indiani alle stelle. Ma quanti racchettoni da spiaggia per un tappeto? 80, 80, devi fare una specie di joint venture, no? Cioè, con due racchettoni cosa vuoi fare? Al massimo puoi ottenere, che ne so, un portachiavi dell'Inter made in China. Ah, dell'Inter. Sì, oppure un cavatappi di quelli con i braccetti, che quando avviti... Vabbè, sentite, ascoltatori, anche voi, se avete dei racchettoni e cercate altri nelle vostre stesse condizioni, per accumulare racchettoni ed averne, diciamo, una quantità tale da poterla scambiare con un tappeto indiano, lasciate sulla nostra segreteria i vostri dati e facciamo così una specie di community dei racchettoni da spiaggia. Solo sui racchettoni, ma no, dai, se avete anche altre offerte o richieste, anche se avete già in mente un baratto, tipo il mobiletto da bagno di mia zia per un caricabatterie Samsung, la linea è sempre aperta, 02 46 52 44 95. Parola d'ordine? Mercatino globale! Voi parlate, parlate, parlate, con le voci pallose dei grandi. Le parole noiose e annoiate fanno schiuma sui piatti rotondi. E pensare che avevate detto che qui c'era da attendere poco. Non ho preso neanche un giornaletto. Non ho preso neanche un videogioco. Guardo avanti, a destra e a sinistra. Nella sala la noia fa un velo. Guardo fuori da una finestra i cartoni animati noiosi delle nuvole in cielo. Beh, settembre, settembre, Drago, Festival del Cinema di Venezia, eh? Adesso arrivi. Cosa? È finito già da un po', eh? Guarda che anche noi abbiamo il nostro inviato al Lido, eh? Cioè, Drago, adesso. Siamo sul pezzo. Cosa adesso? È finito da un pezzo il festival. Ma ho capito, ma il nostro inviato è un po' all'antica, beh, no? Sì, ha registrato anche tutto col Nagra su nastro. Nagra? No? Il Nagra. Cos'è? Una pillolina blu. Drago, il Nagra è un leggendario registratore portatile a nastro. Ma certo, lo so. Ci ha messo un po' a montarlo, no? Servizio, quanto ci ha messo? Una settimana? Sì, un paio di settimane. Ma no. Sì, perché ha fatto il pezzo sull'inaugurazione. Ma come? Vabbè, dai. A Venezia la primavera arriva a fine estate. Com'è possibile? Beh, basta dare uno sguardo distratto alle calli prosciugate, ai vongolieri e alle cozze che trasportano. È tutto un fermento, un effluvio di liquami e turisti, tutti affamati di cinema, cinema e ancora cinema. E Venezia? Chi ha detto che muore? Se anche così fosse, chi se ne frega? Basta che l'acqua alta non rovini le pellicole. Tutti vogliono andare a Venezia con i loro corti, medi, lunghi, medio lunghi, medio corti, medio lunghi, corti medi. Comunque meglio corti che lunghi. E fra tante idee, 100 tendenze, 1000 pareri e altrettante concioni, l'Istituto Barlumen assicura che ci sarà da rompersi le palle. Marietta, monta in gondola che mi te porto al Lido. Fino a che non me fido, te si massa un impostore. La Venezia, la Venezia, arrivano queste bellissime note. Lasciate le vostre impressioni sul festival, che è finito già da un po', allo 02 46 52 44 95. Lasciate le vostre bambinate e scrivete a chiedoasilo @radio24.it. Vai con Venezia. Lasciate anche qualche euro.